Zolt. Fulminati in azienda. Allora, mio caro consulente Paragone, ho bisogno della tua preziosa opinione su un'idea geniale che ho avuto stamattina. Sono tutto orecchi, direttore. Allora, ascoltami bene. L'azienda del nuovo millennio, per essere sempre competitiva sul mercato, deve diversificare il proprio business. Certo, concordo pienamente. Vedi che hai capito subito, vedi? Quindi noi abbiamo bisogno di distinguerci dagli altri, allargare le nostre attività. Basta con le solite cose. Dobbiamo proporre al mercato qualcosa di nuovo. In effetti, direttore, se posso dare un contributo da consulente, oggi l'azienda ha bisogno di differenziarsi dai competitor e di abbattere gli steccati del business tradizionale. Ma bravo Paragone, ma vedi come l'hai detto bene? Hai colto al volo quello che intendevo. E allora com'è che proseguiamo adesso? Chiaramente occorre una riunione straordinaria con tutta la prima linea. Mi occupo io di preparare una presentazione dettagliata del progetto. 200 slide possono bastare? Eh sì Paragone, però facciamo la svelta per favore, perché dobbiamo distinguerci e dobbiamo farlo subito. E come disse il pescatore lungo il fiume, carpa diem. Oh, allora, questa cosa. Buongiorno, grazie, silenzio, bene. Allora, vi ho convocato tutti perché si prospetta una grande rivoluzione. Quando parte così, silenzio, per piacere, dai. Avete letto tutti, immagino, il progetto preparato appositamente dal nostro super consulente. L'avevamo letto, sì, 200 pagine di grafici e tabelle. Non mi sono fatto dubbi. In sintesi, occorre sfruttare questo momento di staticità dei nostri concorrenti per prenderli in contropiede. Ma in che modo, scusami, Paragone? Come indicato a pagina 152 del progetto, occorre diversificare il vostro business. Sì, ma in che senso, scusa? Differenziare, allargare l'offerta di prodotti e servizi in modo da acquisire nuovi clienti. E vuol dire che se dovevamo mettere a vendere qualche altra cosa? Ma sì, è necessario agire, uscire dagli schemi, rischiare, avere un po' di originalità. Oh, guarda, noi l'originalità non manca di certo, siamo sempre stati innovativi. Vabbè, insomma, per farla breve, ognuno di voi deve propormi qualche idea di business alternativo. E alla svelta. No, no, no, ma com'è possibile così su due piedi? Scusami, occorre un'analisi approfondita del mercato, degli scenari. Non cominciamo con le solite cose, non c'è tempo. Marco, dai. Però Schedo almeno stavolta c'ha ragione. Come famo così su due piedi? Ancora su due piedi, su... allora, capisco l'esigenza, ma questo è un bisogno primario. Le buone idee nascono dalla contaminazione e dall'impollinazione. Perciò ho deciso di farvi impollinare tra di voi. Ma io, Marco, ma che ribrezzo. No, mi sembra una cosa tanto brutta. No, sarà bellissimo, verrai, non vi preoccupate. Vi chiudo a chiave nella sala riunioni e farete un bel brain polling, vi vengo a riaprire domani mattina. Mi raccomando, collaborate, contaminatevi e soprattutto impollinatevi, e mi raccomando, ricordatevi, il budget è basso. Schedula, sono le 7 del mattino, non ho chiuso occhio, c'ho pure una certa impellenza fisiologica. Hai tirato fuori st'idea del business, manchi solo tu, dai. Ho fatto, un attimo, sto finendo, ci sono, un secondo solo. Allora, discela, dai. Guarda, è un'idea geniale, non posso che definirla in altro modo. Possiamo mettere in campo, dico, la professionalità del nostro staff HR, proponendo un servizio di selezione del personale per le altre aziende. Ammazza l'originalità, Schedula, praticamente la stessa cosa da adesso, solo che per i concorrenti. Certo. E tu c'entri, sentiamo la tua idea. Ma io c'ho un amico a Cinecittà, gli affittiamo la sede dismessa di Torpagnotta per qualche film o qualche fiction, dicono che pagano bene. Questa è proprio una bella idea. Grazie. Invece la tua, Marta? Guarda, io proporrò di utilizzare i locali aziendali per un bed and breakfast extra lusso con tante boutique dove poter comprare il merchandising con logo di Zot, occhiali da sole, abbigliamento intimo e sportivo. Potremmo trovare persino qualche calciatore che ci faccia da testimonial per la biancheria intima. Ecco, certo, lo dici tu a sul pezzo che siamo stati qua in quattro per tutta la notte per fare le mutande de Zot. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z 2O 1T.